Capitolo 8. Il racconto di Mary e Mary. Noi, Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, figlie di Rhiannon, siamo madre e figlia e parliamo insieme poiché le nostre opere sono intimamente collegate. Io, Mary, la madre, volli dare al mondo una figlia forte e colta, libera e indipendente, e perciò con il mio stesso esempio forgiai lo stampo del suo carattere. Vissi e dedicai ogni mia azione e pensiero a preparare la strada alla figlia che avrebbe dato al mondo la magnifica, terribile storia del misero fallimento di un parto maschile. Victor Frankenstein ebbe la presunzione di dare vita senza l'utero e provocò la distruzione di tutto ciò che amava, inclusa la sua creatura. Ma non voglio anticipare il racconto che lei stessa vi offrirà. Dovete sapere, però, che ogni mio respiro fu preparazione per quella meravigliosa figlia che ha espresso al massimo grado, nella vita e nell'opera, tutti i miei insegnamenti e di cui sono fierissima. Quelle del mio sesso, spero, mi vorranno scusare, scrivevo, se le tratterò da creature razionali, piuttosto che adulare le loro grazie ammaliatrici e considerarle come se fossero in uno stato di infanzia perpetua, incapaci di stare in piedi da sole. E io desidero seriamente indicare in che cosa consistono la vera dignità e la vera felicità umana. Desidero persuadere le donne a fare di tutto per diventare più forti, nella mente e nel corpo, e convincerle che frasi tenere, cuori impressionabili, sentimenti delicati, gusti raffinati, sono quasi sinonimi di debolezza. E chi è solo oggetto di pietà e di quella specie di amore, diventa presto oggetto di disprezzo. Così scrissi nella mia opera, che aprì la strada alla battaglia delle sorelle per il voto alle donne. Non ho mai sopportato né incoraggiato la frivolezza o la falsa debolezza nelle donne, convinte di poter in questo modo garantirsi attenzione e protezione da parte degli uomini, in virtù del loro bell'aspetto. Anche io fui bella, ma mai mi servii di questo per mendicare protezione. La forza della dea risplende in noi e il nostro potere sciamanico ci guida e ci aiuta a onorare la nostra missione, lo scopo della nostra incarnazione. La mia missione era vivere in modo libero, mantenendomi da sola, provvedendo da me stessa alla mia educazione, viaggiando e lasciandomi guidare dall'intuito, e dimostrando che, ebbene sì, anche una donna può vivere così. Credevo fermamente che le donne potessero essere delle compagne per i loro mariti e non solo dei soprammobili. E desideravo per le donne, in quanto esseri umani, gli stessi diritti che avevano gli uomini. Esecravo, e lo scrissi, il fatto che le donne non potessero possedere nulla, poiché il passaggio dei beni avveniva da maschio a maschio, che fosse eredità al figlio maggiore o dote che diventava proprietà del marito. La donna non aveva di che vivere senza un uomo a provvedere per lei. Questo era il primo nemico dell'emancipazione femminile. L'unica speranza di libertà per la donna era la vedovanza, e battei fino alla fine sull'importanza di educare le donne, di istruirle, per far sì che smettessero di essere, come le hai definite, sorella Gabriella, queste fanatiche ridicole, queste spose monotone che per mantenere l'amore coniugale non possono contare su altro che sulla loro bellezza fisica. Non esiste virtù nell'ignoranza, scrissi, poiché mi rendevo conto che la forzata mancanza di istruzione alle donne aveva il solo scopo di nutrire in modo malato la loro sensibilità, a detrimento dell'intelletto e dell'onore che se stesse venivano addestrate a considerare qualità esclusivamente maschili. Tutte noi, sedute in questo cerchio, mi pare, abbiamo insistito sull'importanza dell'educazione alle donne. Noi sorelle siamo state escluse dalla gestione del pianeta quando ci è stato vietato l'accesso alla cultura. Quando ci è stato impedito di imparare a scrivere e a leggere, il mondo è diventato il giocattolo degli uomini. Tu, Sabina, Hai creato la prima pedagogia infantile e voi altre, Gabriella con la tua rivoluzionaria riforma scolastica, Marie con l'apertura del padiglione Curie alle studentesse, Hildegard con il tuo programma di istruzione alle ragazze che ti si affidavano a Bingen, Brigitte che hai goduto di persona dell'insegnamento da parte di maestre illuminate che ti hanno preparata al tuo ruolo. Tutte noi abbiamo un debito con l'istruzione. Senza quella, né la passione, né il coraggio, né la forza sono sufficienti. Istruzione, non nozionismo. Istruirsi è aprire la mente e imparare a pensare. Saper leggere serve a venire a conoscenza che altre donne prima di noi hanno lottato per difendere i nostri diritti e hanno scritto libri, articoli e trattati perché le loro idee si diffondessero. Sono le donne quelle che leggono, e se le donne leggessero le opere delle donne, allora davvero tutte insieme potremmo togliere il pianeta alla maldestra e dannosa gestione patriarcale. Io non provenivo da una famiglia ricca che mi avesse permesso di studiare. Ero fuggita a mia volta dalla violenza di mio padre ed ero povera e autodidatta. Come avevo deciso io di rompere le mie catene senza contare su nessun aiuto, così potevano riuscirci molte altre donne, solo che lo avessero voluto. Non avevo compassione e non giustificavo le frivole donnette che preferivano restare a macerare nella loro comodità e vanità, piuttosto che prendere in mano le redini della propria liberazione. Scrissi: l'educazione delle donne recentemente è stata oggetto di attenzione maggiore che nel passato. Esse, tuttavia, sono considerate ancora sesso frivolo, ridicolizzate o compatite dagli scrittori. È risaputo che le donne passano gran parte dei primi anni di vita ad acquistare una vernice di qualità formali. Nel frattempo, le forze del corpo e della mente vengono sacrificate a idee frivole di bellezza e al desiderio di raggiungere una posizione attraverso il matrimonio, l'unica via per cui le donne possono elevarsi socialmente. E siccome questo desiderio fa di loro semplici animali, una volta sposate si comportano alla maniera che ci si aspetterebbe dai bambini, si agghindano, si imbellettano. Sono profondamente convinta che ci libereremo di certi modi puerili se si permettesse alle ragazze di fare sufficiente moto, piuttosto che stare segregate in camere chiuse fino a fare rilassare i muscoli e distruggere le funzioni digestive. Se infatti, per continuare ancora quell'osservazione, la paura delle ragazze, invece di essere assecondata e forse inculcata, venisse trattata alla stregua della vigliaccheria nei ragazzi, vedremmo presto donne dall'aspetto più dignitoso. È anche vero che, allora, non le si potrebbe con uguale proprietà definire i dolci fiori che sorridono sul cammino dell'uomo. Ma sarebbero membri più rispettabili della società ed esplicherebbero i compiti importanti della vita alla luce della propria ragione. Se le donne non sono uno sciame di frivole efemere, perché tenerle in un'ignoranza camuffata da innocenza? Gli uomini si lamentano a buon diritto delle follie e dei capricci del gentil sesso e fanno dei nostri vizi abietti e delle nostre passioni ostinate oggetto di satira pungente. Osservate, rispondo io, la naturale conseguenza dell'ignoranza. Questo scrivevo. Come voi, sorelle Sabina e Gabriella, ho battuto anche sull'importanza dell'educazione infantile. Bambine e bambini dovevano essere istruiti sia nelle scuole di campagna, sia nelle loro stesse famiglie, quando possibile, e in classi miste, affinché imparassero a rispettare i reciproci diritti e doveri. Ho creato una scuola per ragazze 100 anni prima che fosse inventato il modello della governante vittoriana. L'unica professione consentita a una donna era insegnare in scuole di campagna o in case private. Il progetto fallì, ma almeno ci provai. I tempi non erano ancora maturi, però la mia capacità di scrivere fece di me una redattrice e scrittrice professionista. Io ho dimostrato con il mio esempio, con la mia vita, che non esiste alcuna inferiorità naturale della donna rispetto all'uomo, ma che le bambine vengono addestrate a quest'idea di essere inferiori da una educazione che le intrappola nel ruolo di essere creati per compiacere l'uomo. Così le ragazze si abituano a giudicarsi secondo canoni maschili, soffocando la loro naturale razionalità e il loro buon senso e convincendo se stesse della loro inferiorità. È questa la ragione per cui rinunciano alle occupazioni considerate come maschili, nonostante sarebbero egregiamente in grado di svolgerle. Ma io non ho rinunciato. Io ho viaggiato, ho avuto diversi compagni, ho studiato e ho aperto la mia mente. E ho lottato dove e quando sentivo che fosse necessaria la mia partecipazione alla lotta. L'emancipazione e il libero arbitrio mio e di tutta la sorellanza era ciò per cui lottavo con tutto il fiato che avevo in corpo in ogni momento della mia vita. Mio padre era un uomo che i fallimenti e la povertà avevano reso alcolizzato e brutale. Picchiava mia madre e lei le prendeva. E non si ribellava. Aveva occhi e cuore solo per il suo primo figlio maschio. Non potevo aspettarmi nulla per il mio futuro da un padre che disprezzava le donne e le riteneva indegne di istruzione e da una madre che non metteva in dubbio le sue opinioni. La mia coscienza si risvegliò in un lampo quando, l'ultima volta che assistetti a una scena di pestaggio domestico, ebbi di fronte ai miei occhi la certezza del mio destino. Nauseata dalla violenza di lui e dalla sottomissione di lei, me ne andai. Sopravvissi grazie a due sorelle spirituali che mi aprirono gli occhi sull'importanza di istruirmi e che mi introdussero nei circoli culturali dove potei cominciare la mia formazione. Mi mantenevo come dama di compagnia di una ricca signora e nel frattempo studiavo e leggevo da sola, con la scusa di leggere a lei, che si addormentava quasi subito saporitamente e mi lasciava tranquilla per parecchie ore. Il breve tempo che dovevo dedicare a intrattenerla con stupidi giochi di carte erano nulla in confronto alla quantità di ore che la povera donna dedicava al sonno, lasciandomi libera di leggere. Purtroppo era iraconda. E io non rimasi con lei che il tempo necessario per trovare qualcos'altro. Infatti, divenni istitutrice in casa di un lord e cominciai a viaggiare con la famiglia, che era irlandese. Compresi che il viaggio è uno strumento di crescita che ci toglie dalle nostre misere certezze e ci lancia letteralmente fuori dal recinto per cominciare a camminare con le nostre gambe. Ma non ero nata per fare l'istitutrice. Non avevo pazienza coi marmocchi viziati e piagnucolosi. Tu comprendi, sorella Marie, vero? Finalmente arrivò a me il lavoro giusto. Cominciai a collaborare con l'editore di una rivista londinese e grazie a quello potei pubblicare i miei scritti. E conobbi gli intellettuali radicali del mio tempo che gravitavano intorno alla casa editrice, tra i quali il mio futuro marito, William Godwin, e i pittori Blake e Fuseli che dipingevano le voci dell'occulto. Blake illustrò un mio libro per bambini e Fuseli divenne mio amante. Scoppiò la Rivoluzione francese che, naturalmente, mi trovò completamente d'accordo con le sue motivazioni. Avevo pubblicato Dei diritti degli uomini per sostenere la causa della rivoluzione. Gli aristocratici erano viziosi, inutili e corrotti. E io sostenevo l'importanza di una vita semplice e sana in campagna, in una fattoria che potesse provvedere ai bisogni fondamentali di ogni essere umano. E poiché ho sempre preferito gettarmi a corpo morto nella vita e decidere del mio destino, anziché starlo a guardare, sebbene spesso le coscienze si possano acquietare, scrivendo libelli di protesta senza scomodarsi a lasciare la propria scrivania, io, subito dopo la pubblicazione, partii per la Francia dove intendevo fare la mia parte. Pensavo, come le sorelle francesi, che la rivoluzione ci avrebbe dato libertà e indipendenza, cosa che invece, ahimè, non avvenne. Le donne combatterono sulle barricate insieme ai loro uomini, ma quando fu il momento di distribuire i premi per la vittoria, esse furono escluse e si videro negati anche i minimi diritti che avevano prima sotto la monarchia. Ira e delusione. Avevo pubblicato a Londra il mio libro sulla Rivoluzione francese, ma ora, alla luce di quello che ho visto poi, mi rendo conto che le donne una volta in più sono state tradite e beffate. Nel frattempo, per sfuggire a un amante infedele, ero partita con la mia prima figlia e una bambinaia per il nord. Volevo il freddo, avevo bisogno di purificarmi e guarirmi l'anima da tanta delusione. Attraversai Norvegia, Danimarca e Svezia e scrissi un libretto in forma di lettere che in realtà riportava impressioni ed emozioni di viaggio. Tornai a Londra e ripresi il mio lavoro nella casa editrice. William Godwin aveva letto il mio libro sul viaggio al nord e ne era rimasto rapito. Diceva che ero geniale. Ci amammo, concepì sua figlia e ci sposammo. Nonostante egli fosse un anarchico, teorizzatore dell'abolizione del contratto matrimoniale e sostenitore del voto alle donne, si preoccupò che io non fossi esposta a pettegolezzi. E io, autrice di due romanzi nei quali denigravo il matrimonio come istituzione patriarcale che costringe le donne alla schiavitù domestica, acconsentii a sposarlo, per non dover portare sulle spalle il peso della sua preoccupazione. Lo amavo. Quello fu il mio dono d'amore per lui, con la condizione però di vivere in appartamenti separati, seppur vicini. Non volevo sentirmi obbligata alla convivenza. Ma il dono più grande lo feci a mia figlia, Mary, la mia meravigliosa bambina, figlia di una donna e di un uomo liberi. A Mary, che scrisse uno degli intramontabili capolavori della letteratura umana, diedi la mia vita. Morii pochi giorni dopo averla data a luce. Non poteva essere diversamente, solo così poteva avvenire il passaggio dell'energia matrilineare. La mia fu una morte sciamanica, così come avevo vissuto da sciamana, sperimentando il nuovo, senza ombra di paura e seminando frammenti di risveglio. Nonostante avessi per due volte oltrepassato la soglia per poi tornare, poiché dall'altra parte dello specchio avevo visto che il mio compito in terra non era finito, abbandonai questa volta consapevolmente il mio corpo all'infezione, senza lottare, solo poiché ero cosciente di aver dato la vita a un nuovo seme e finalmente, come voi, sorelle Marie e Sabina, sapevo che la mia missione era compiuta. Potevo tornare in grembo alla madre. Tacque. Sua figlia aveva gli occhi lucidi di commozione e la abbracciò, mentre tutte le donne in cerchio si univano a quella esplosione di amore. Poi le accarezzò delicatamente una guancia e la invitò a sedere, mentre lei, dopo essersi raccolta un momento, cominciava a narrare la sua storia. Sono Mary Shelley, la figlia di Mary Wollstonecraft. Ho vissuto una vita indipendente come mia madre, viaggiando, amando, studiando e scrivendo. Ho perso mio marito, Percy Bysshe Shelley, e tre dei miei quattro figli. Il lutto segnò il mio passaggio in questa vita. Tutte le persone a me care morivano e mi lasciavano sola. Cominciai presto, come te, sorella Maria, a interrogarmi sulla nascita e sulla morte, la porta dell'est e la porta dell'ovest, per entrare e uscire da questo mondo, e sul senso della violenza. Già da ragazzina mi sentivo così triste per gli aborigeni degli imperi Maya e Inca, distrutti dalla tracotanza europea. Frankenstein, il mio capolavoro, l'opera per la realizzazione della quale sono venuta in questo corpo è stato definito il primo romanzo horror nel mondo degli uomini, che ha voluto bollarlo così per non ammettere l'incapacità maschile a generare la vita. Io invece intesi scrivere un romanzo etico e morale, che raccontasse l'abominio dell'uomo che vuole generare per puro ego, senza essere stato dotato dell'utero dalla natura. Victor Frankenstein, studente di chimica e scienze, vuole indagare le cause della vita e da dove procede il suo principio, basandosi sul galvanismo, che nel periodo in cui scrivevo era al centro di scoperte scientifiche che autorizzavano l'uomo a credere di potersi sostituire alla dea nella creazione. Utilizzai tutte le informazioni sul galvanismo in mio possesso per dare una plausibilità scientifica al mio romanzo e al tempo stesso per confermare la tesi che solo la grande madre può generare la vita. Prima di poter adoperare le sue cognizioni per far muovere la materia inanimata, però, Victor Frankenstein deve familiarizzarsi con la morte, studiare le cause e i processi della decomposizione. Ciò che egli vede nella morte, essendo in quanto uomo impossibilitato a comprendere la visione circolare della dea nel suo aspetto di anziana preposta alla rigenerazione, è solo distruzione, putrefazione, marciume. Non comprende lui la morte come pausa, come fase di passaggio e trasmutazione da una manifestazione all'altra, da una dimensione all'altra. Lui comprende solo che la morte è male, che va combattuta ed estirpata. Non vi è spiritualità in lui. La fredda diagnosi dell'intelletto blocca qualunque considerazione che vada al di là di ciò che i sensi percepiscono. E infine, dopo giorni e notti insonni di lavoro febbrile, riesce a scoprire quelle che lui definisce le cause della vita, anzi sostiene di essere in grado di infondere vita alla materia inanimata. La gioia e l'esaltazione lo pervadono. Io stringevo in pugno, dice nel romanzo, il sogno degli uomini più saggi sin dalla creazione del mondo. Possedevo il segreto per suscitare la vita. Già, è il sogno degli uomini, non certo delle donne, poiché le donne sanno dare la vita, non hanno bisogno di studiare come farlo. Tuttavia, Victor si rende conto delle difficoltà di preparare un corpo a ricevere la vita, un corpo con tutti i suoi intrichi di fibre, muscoli, vene. Così si accinge alla creazione di un essere umano, decidendo ancora una volta, mosso dall'ego e dalla megalomania, di costruire, lui che non lo aveva mai fatto prima e non aveva esperienza alcuna, una creatura gigantesca. Vuole inondare i confini della vita e della morte con un fiume di luce, poiché non comprende che vi sono mondi silenziosi e spazi bui, segreti, che vanno rispettati e lasciati in pace. Così esprime il suo puerile bisogno di plauso, senza mezzi termini né pudore. Una nuova specie mi avrebbe benedetto come sua origine e suo creatore. Molti esseri felici e perfetti avrebbero dovuto a me la loro esistenza. Nessun padre avrebbe avuto diritto a una gratitudine così totale da parte dei figli come quella che io avrei meritato da loro, e avrei anche potuto infondere nuova vita in corpi destinati alla morte. Ma per far questo, per poter essere riconosciuto creatore, Victor raccoglie ossa da cripte e membra da mattatoi e profana i segreti del corpo umano nelle sale anatomiche, assemblando parti e costruendo un orrendo corpo in un laboratorio. L'uomo non può creare corpi, solo la donna può. E mentre le donne gravide fioriscono di bellezza e salute, Victor, sentendosi colpevole di un crimine, si riduce a un febbricitante relitto senza cibo e senza sonno. Descrissi il mio orrore attraverso le sue parole. Come dare un'idea dell'infelice che con pene infinite mi ero sforzato di creare? La pelle grinzosa e le labbra nere e tirate, gli occhi acquosi come le orbite. Avevo dato vita a un corpo inanimato, ma ora che avevo finito, il mio cuore si riempiva di orrore e disgusto, incapace di sopportare la vista dell'essere che avevo creato, sciagurato e miserabile mostro, demoniaco cadavere al quale così follemente avevo dato la vita. Fuggii. Victor è un vigliacco. Così l'ho dipinto. Prima fugge. Poi immagina diverse volte di suicidarsi, senza però portare mai a termine il proposito. Si commisera, se ne va in giro da solo, non dà alcun conforto alla famiglia. Al contrario, le donne che ho messo intorno a lui sono forti e determinate nella sorellanza. Sua madre, Caroline, vuole una figlia femmina e non potendola partorire adotta l'indigente ma valorosa piccola Elizabeth. Elizabeth è l'unica che crede nell'innocenza della cameriera Justine e Justine confessa un omicidio che non ha commesso perché il prete in cella la minaccia di scomunicarla, se lei non gli rilascia una piena e completa confessione. Dunque lei si fida del prete e firma il falso. La Chiesa è corrotta e la giustizia pure, perché anziché cercare il vero assassino, preferisce dar la caccia a una inesistente strega creata per chiudere il caso e tranquillizzare la gente. La falsa giustizia impicca Justine. C'è poi la turca Safi, che ha una madre nata libera e poi fatta schiava dai turchi, la quale vuol fare in modo che la figlia possa studiare. Le insegna ad aspirare ai poteri più alti dell'intelletto e a una indipendenza di spirito vietata alle musulmane. Safi non vuole tornare nell'harem, dove le sarebbero stati consentiti solo passatempi puerili, e aspira a restare in Francia, dove alle donne, a quel tempo, era permesso occupare un posto nella società. Safi non tradisce l'uomo caduto in disgrazia per aver salvato suo padre dalla prigione. Lo cerca, lo raggiunge e lo sposa. Queste sono le donne che circondano il vigliacco Victor Frankenstein. Ma se l'uomo è miserevole e incapace di creare, come ammette lo stesso scienziato, la dea è l'unica vera creatrice. La imperatrice natura, così la definisco nelle parole che ho messo in bocca a Victor, usando una perifrasi che adombra la grande madre. È la creatrice di bellezza assoluta che ho descritta nei minimi dettagli, nelle montagne, nei laghi purissimi, nei ghiacciai e nelle foreste, nei profumi perfetti dei fiori a primavera e dei campi d'estate, ricchi di grano e frutta. Lei è la madre che nutre i suoi figli e li rigenera. E infine Victor incontra il mostro, che descrivo molto più umano di lui. Io gli faccio dire: «Io sono la tua creatura. E non ho diritto alla tua benevolenza e alla tua compassione. Tu hai fatto di me la miserevole creatura che sono. Tu vuoi uccidermi? Come osi giocare così con la vita e la morte? Ascoltami e poi, se vorrai, distruggi la creatura delle tue mani. Io ero buono, ma l'infelicità e la solitudine mi hanno reso cattivo. Sta a te, se devo essere mansueto, ho un flagello per la tua rapida rovina. Dovevo essere il tuo Adamo e invece hai fatto di me l'angelo caduto. Questa è la mia accusa al Dio degli uomini, che fallisce nella sua creazione, poiché genera i figli senza avere l'utero e popola il mondo di infelici orfani, paurosi, aggressivi e inquieti. Il povero mostro, nonostante il suo corpo di adulto, prova tutti gli stadi fisici ed emozionali di un neonato che scopre la luce, il freddo, la fame, la paura del buio. Ma poiché non ha una madre che lo accudisca e lo conforti, e il padre lo ha abbandonato fuggendo, egli deve apprendere da solo. Vivendo nel bosco, dove si era rifugiato, casualmente scopre il fuoco, acceso da un fenomeno naturale, e come usarlo per cuocere il cibo. Quando arriva l'inverno, non trovando più bacche né ghiande di cui si era nutrito fino a quel momento, parte alla ricerca di cibo e riparo e si cruccia di abbandonare il suo fuoco che non sapeva come riprodurre. Egli cerca ciò a cui ogni essere vivente ha diritto, ma nonostante il suo animo gentile, viene ogni volta scacciato per la sua bruttezza. Trova riparo in un capanno, a ridosso di una misera capannuccia dove vive una famiglia composta da un vecchio e dai suoi figlioli, femmine e maschio, che egli osserva spiando da una fessura nel muro comune. All'inizio non si spiega perché quelle persone siano infelici, nonostante abbiano cibo, abiti e un tetto sopra la testa. Poi capisce che la causa è la povertà. Così, se prima sottraeva di notte parte del loro cibo per sostentarsi, in seguito smette e prende a nutrirsi di sole bacche. Anzi, comincia ad aiutarli raccogliendo legna per loro e lasciandogliela davanti alla capanna ogni mattina. Sempre in solitudine, osservandoli, scopre il linguaggio. Impara a dire fuoco, latte, pane e legna. Scopre il significato della parola padre e la associa al buon vecchio. Spesso osservandoli si commuove e in seguito si affeziona a loro. Scopre l'empatia. Ma vedendosi riflesso in una pozza d'acqua, comprende di essere un mostro e questo lo riempie di mortificazione e scoraggiamento, pur non conoscendo ancora appieno gli effetti della sua deformità. Quando giunge la primavera, egli osserva i germogli nell'orto. Nel nascondiglio comincia a sentire la noia ed esce, solamente di notte, per paura di essere scacciato con orrore, a raccogliere cibo per sé e legna per i suoi amici. Spazza la neve e fa altri piccoli lavori che i suoi vicini di casa attribuiscono a uno spirito benigno. Così si illude, cominciando a credere di poter ridare loro la felicità perduta grazie al suo lavoro. Immagina che dopo l'iniziale disgusto possano amarlo per le sue buone azioni. La terra gli appare felice con le sue nuove foglie, una dimora degna degli dèi. Il futuro gli è reso attraente dalla speranza. Studia il linguaggio per poter comunicare con loro anche se con toni rozzi. Impara a leggere, scopre la musica e impara a parlare, ascoltando i suoi vicini dal buco nella parete. Quando il figlio del vecchio legge ad alta voce il libro Le rovine, egli apprende anche parte della storia umana, nella quale io, Mary, approfittai per inserire la mia opinione sul colonialismo e le razzie sistematicamente operate nei confronti di altri popoli. Scrissi nelle parole del mostro: seppi della scoperta dell'emisfero americano e piansi sul destino di quegli aborigeni. Per lungo tempo non riuscii a concepire come un uomo potesse spingersi ad assassinare il suo amico, o anche perché ci fossero leggi e governi. Sentii parlare di divisione, di proprietà, di ricchezze immense, di squallida miseria, di rango, di discendenze, di nobiltà. Seppi che l'attributo più stimato dagli umani è una discendenza nobile e incontaminata, unita alla ricchezza. L'uomo poteva essere rispettato solo a queste condizioni. L'essere umano veniva trattato come uno schiavo, costretto a sciupare le proprie energie a vantaggio di pochi eletti. E mi ritrassi con disgusto e ribrezzo. In queste parole, mamma, l'eco del tuo insegnamento e dei tuoi libri. E più il mio povero mostro apprende, più si accorge di essere solo. Lui è la voce degli umili, degli oppressi, dei senza voce, schiacciati dall'arroganza delle armi e dalla forza del pregiudizio. Non c'era nessuno simile a me. Ero dunque un mostro, una macchia sulla faccia della terra. Non posso descriverti l'angoscia che queste riflessioni mi davano su me stesso. Il dolore non faceva che crescere insieme alla conoscenza. Oh, fossi rimasto nel bosco, senza altra cognizione che quelle della fame, della sete e del freddo. Seppi della nascita e dei legami familiari, ma nessuna madre aveva benedetto la mia nascita di sorrisi e carezze. Dove erano i miei amici e i miei parenti? Mai avevo visto un essere che affermasse di avere qualche rapporto con me. Che cosa ero? Da dove ero venuto? Qual era il mio scopo? Dov'era il mio creatore? Ero solo e abbandonato. Nessuna Eva allevava i miei cuccioli o divideva i miei pensieri. Il mio cuore bramava di essere conosciuto e amato. Avevo solo pensieri nobili e e non conoscevo il delitto. Ma un giorno il mostro trova il diario di Victor Frankenstein nella tasca dell'abito di lui che aveva afferrato fuggendo dal laboratorio il giorno in cui il suo cuore aveva cominciato a battere. Così scopre l'orrore della sua nascita. Maledetto il giorno in cui ho ricevuto vita, maledetto creatore, perché hai dato forma a un mostro così orrendo che disgusta persino te? Così ti maledii. Nella sua fame di affetto si azzarda a convincersi che i suoi vicini possano avere compassione di lui, nonostante il suo aspetto. Decide di prepararsi a un incontro con loro, ma ogni volta che vede la sua immagine riflessa nell'acqua o l'ombra della sua mole gigantesca riflessa al chiaro di luna, il terrore del fallimento, del rifiuto, lo assale. Si risolve a presentarsi al vecchio quando è solo, poiché, essendo cieco, non sarebbe stato spaventato dal suo aspetto deforme. Il vecchio lo accoglie con affetto e lo riconosce come lo spirito benigno che offre loro la legna. E già il mio povero mostro sta per crederci quando sopraggiunge il figlio del vecchio che, spaventato dal suo aspetto e ritenendolo una minaccia, senza lasciargli proferire parole, lo caccia a bastonate. Così il mostro va a cercare il suo creatore. E gli chiede di creare una femmina del suo stesso genere, con la quale vivere in quella reciprocità di affetti necessaria ad ogni esistenza. Chiede una compagna come un suo diritto. Saremo due mostri, respinti dal mondo, ma proprio per questo più uniti da comune affetto. Se accetti, non ci rivedrete mai più e saremo mansueti. Vivremo insieme di poco nella natura, in modo pacifico. Se me lo neghi per crudeltà, io a te, mio nemico, perché mio creatore, giuro, odio inestinguibile. La mia solidarietà in tutto il romanzo è sempre andata al mostro. Invece che dalla compassione, le azioni degli uomini sono state mosse dal pregiudizio e dalla vendetta, e nelle mie intenzioni è stato sempre chiaro che il mostro avrebbe mantenuto la sua parola e che Victor avrebbe potuto evitare la sua sofferenza anche solo rendendosi lui stesso disponibile come padre o come amico. Ma la sua vigliaccheria, la sua arroganza e la sua presunzione non riescono a essere celate dalle parole di cordoglio con le quali esprime le sue perdite. Mentre il lamento del mostro è straziante al mio cuore dalla prima parola all'ultima. Il mostro è molto più nobile del suo codardo creatore. Victor fallisce anche come vendicatore perché non riesce a raggiungere il mostro per ucciderlo. O forse non vuole raggiungerlo, poiché tutte le volte che si trova vicino alla morte, anche se apparentemente la invoca, poi in realtà ne ha paura. Mentre invece il mio povero mostro, fino alla fine, non cessa di suscitare la nostra compassione. Alla morte di Victor, egli si dispera. Credete che io fossi insensibile all'angoscia? Desideravo essere partecipe di quell'amore che vedevo negli esseri umani. Ma ora che tutto è diventato disperazione, sono contento di essere solo a soffrire. Io sono solo. Bramavo amore e amicizia e ogni volta ero ripudiato. Perché solo io devo essere giudicato criminale quando tutta l'umanità ha peccato nei miei confronti? Anche ora il sangue mi ribolle al ricordo di questa ingiustizia. E nell'uscire di scena si dirige a nord per accendere una pira dove ardere insieme al cadavere del suo creatore. A nord, dove c'è Asgard, nel fuoco alchemico purificatore, che vede l'ultimo atto sciamanico dell'enorme homunculus a cui la dea, nonostante il pasticcio biologico di Victor, non ha negato un'anima degna. Ho detto che il mio romanzo, pur essendo un'opera morale, è stato bollato dagli uomini con la definizione di horror. Cosa significa horror? Perché usare un termine così squalificante quando non c'è nulla di orrorifico, ma solo di doloroso nel processo abortito di creazione da parte di chi non può creare la vita perché non ha l'utero? Questa era la mia considerazione e il dolore del mostro trovava in me totale empatia. Nemmeno per un momento io l'ho giudicato malvagio, ma Victor sì, poiché gli uomini sono propensi a giudicare e condannare negli altri ciò che giustificano in se stessi. Quando Shelley, mio marito, morì, anche io, come mia madre, tornai a Londra dopo aver vissuto un po' in Italia, cercando di sopravvivere con mio figlio. Tentai di vivere dei miei romanzi e soprattutto curando l'edizione delle opere di mio marito, di cui avevo tutti gli scritti e i commenti originali. L'aristocratico padre di mio marito in principio non mi aiutò, ma poi mio figlio divenne l'unico erede del patrimonio degli Shelley. Così, finalmente, ricevemmo una piccola rendita che ci permise di vivere dignitosamente ed io potei tornare a frequentare il circolo di intellettuali, gli stessi che avevano accolto e amato mia madre. Ah, mamma, come avevi preparato bene il mio cammino. Nate non per generare figli, ma libri. Non amai né sposai nessun altro. Fui vedova per quasi tutta la vita, poiché il mio cuore era annegato con Shelley. Fui scrittrice e curatrice editoriale per la maggior parte della mia vita. Nonostante i miei altri romanzi, io mettevo il cibo in tavola grazie ai proventi delle decine di racconti che scrivevo per riviste femminili, ma soprattutto grazie al mio Frankenstein, che fu ripubblicato molte volte ed ebbe un successo enorme. Fortunatamente, mentre ero ancora in vita. E grazie anche alle poesie di mio marito, la cui vita spericolata e la prematura tragica fine ne avevano fatto un eroe romantico. Feci studiare e laureare mio figlio e poi, cosa meravigliosa, trascorremmo insieme gli ultimi anni della mia vita viaggiando e conversando. Mio figlio mi diede quella tranquillità e quella stabilità che mio marito mi aveva negate. E non potei che seguire anche in questo le tue orme, mamma, poiché anche i miei viaggi si trasformarono in libri. Le avventure rocambolesche della vita di mio marito mi perseguitarono fino alla fine e fui molte volte ricattata da chi, essendo in possesso di suoi scritti o prove di sue infedeltà o di azioni sovversive, cercò di estorcermi denaro per mantenere il segreto. Tuttavia, ormai, le follie di Shelley erano di pubblico dominio, come quelle del suo amico Byron, e non facevano più notizia. Così potei conservare il mio denaro. Gli ultimi anni li passai nella grande dimora degli Shelley con mio figlio e la sua cara moglie, amata e accudita come una madre dovrebbe sempre essere. Ma la mia non fu una morte facile, poiché la sofferenza mi squassava le membra e la testa mi doleva tanto da non permettermi di scrivere. E come potevo vivere senza tenere la penna in mano? Il dolore del mostro aveva traslocato dalle pagine del libro e mi era entrato dentro, mi stava consumando. Così dovetti lasciare il corpo anche io. Mi volsi a ovest e abbracciai la dea. Per tutta la vita, però, scelsi, in onore del tuo insegnamento, mamma, di chiamarmi come te, anche io, Mary Wollstonecraft. Così noi, Mary e Mary, figlie di Rhiannon, coloro che hanno riscattato il lignaggio matrilineare, in questo sacro cerchio abbiamo parlato. Madre e figlia si voltarono l'una verso l'altra con una compassione e una complicità negli occhi tali da far comprendere a ogni sorella del cerchio cosa potesse essere stato l'amore tra Demetra e Persefone. Poi si chiusero in un abbraccio, come a voler ricreare un guscio di protezione intorno al seme che la madre pone e la figlia nutre. E mentre già il riverbero dorato del sole nascente sfiorava le cime dei pini, intorno alla radura dove ardeva il sacro fuoco, il vassoio con i panini dolci cotti nelle braci e il bricco del tè veniva fatto girare per la colazione. Le sorelle si presero del tempo per mangiare, in silenzio, riflettendo ciascuna su ciò che aveva udito dalle altre. Poi Guglielma, la madre spirituale, e Maifreda, la sua figlia papessa, dolcemente, chiesero sottovoce di raccontare la loro storia e tutte, ritirate le ciotole, si disposero ad ascoltare.